Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchisi, questa è Europa 24, una settimana decisiva per la manovra economica del governo italiano a Bruxelles. Pensiamo di essere in regola, i colleghi europei mi hanno detto che andiamo nella direzione giusta. Si mostra ottimista il ministro dell'economia Padoan sul via libera di Bruxelles alla legge di stabilità alla vigilia di una settimana decisiva per le sorti della manovra. Il rapporto deficit-PIL continua a scendere, l'obiettivo strutturale continua a migliorare, il programma delle riforme è importante, precisa Padoan, che definisce il commissario europeo all'economia e il rigorista finlandese Katainen, una persona simpatica, fredda e gentile. Padoan fa intendere che il contatto con Bruxelles è costante. Giovedì è in programma il summit europeo, nel corso del quale sia Renzi che Hollande cercheranno di rilanciare le politiche della crescita, anche e soprattutto per allontanare i rischi di bocciatura delle rispettive manovre. Il settimanale tedesco Der Spiegel ieri ha anticipato che la Germania starebbe aiutando la Francia a elaborare una roadmap per il rientro del deficit e per le riforme strutturali, proprio per evitare un clamoroso no europeo alla legge di bilancio. E nelle sliding doors di questo autunno europeo, Roma guarda con interesse alla rapida approvazione mercoledì a Strasburgo della commissione Juncker. Qualsiasi intoppo o ritardo lascerebbe in carica il team Barroso, giudicato meno benevolo verso l'Italia. Grande attesa infine anche per l'inizio degli acquisti, oggi dei covered bond da parte della BCE. Con le obbligazioni garantite, Francoforte fa un altro passo in avanti nella politica espansiva osteggiata dalla Bundesbank. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'aiuto ai paesi africani colpiti dal virus Ebola è al centro della riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea oggi a Lussemburgo. Parola d'ordine: alzare il livello di efficacia della risposta all'epidemia in Europa, ma anche rafforzare l'aiuto alle organizzazioni non governative e ai paesi toccati da Ebola, costata la vita finora a più di 4.500 persone, secondo le ultime stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra le ipotesi, quella di articolare gli aiuti internazionali intorno a tre paesi leader: gli Stati Uniti per la Liberia, la Gran Bretagna per la Sierra Leone e la Francia per la Guinea. Francia e Germania, da parte loro, insistono per la messa a punto di un dispositivo coordinato ed evacuazione sanitaria. Questo dossier di proposte arriverà sul tavolo del vertice di Bruxelles tra capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea nel fine settimana. Intanto i vari Stati membri hanno adottato misure precauzionali in ordine sparso. Francia e Belgio, i soli in Europa con voli diretti quotidiani nelle zone epicentro dell'epidemia da Ebola, fanno un controllo sanitario dei passeggeri. Un'analoga sorveglianza è già in vigore in Gran Bretagna e in vari aeroporti americani, anche se secondo l'OMS la priorità deve restare quella dei controlli aeroportuali in partenza dai paesi africani colpiti, da cui ha escluso come libere da virus Senegal e Nigeria. Finora l'Unione Europea ha promesso di sbloccare circa 500 milioni di euro per aiutare Liberia, Sierra Leone e Guinea, di cui 180 milioni forniti dalla Commissione europea, uno sforzo insufficiente secondo il premier britannico Cameron, che chiede un aumento fino a 1 miliardo di euro. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Consiglio dei Ministri degli Esteri europei ha adottato nuove sanzioni contro il regime siriano di Assad. In totale altre 16 persone, due entità, sono state colpite con il congelamento dei beni, il divieto di viaggio nell'Unione Europea. 14 persone per le responsabilità della repressione, due persone, le due entità, per il sostegno pratico al regime. L'Europa saluta con favore il modo ordinato con cui si sono svolte le elezioni in Bosnia il 12 ottobre, sottolineando la cruciale importanza di formare un governo prima possibile. Lo dicono i ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Il Consiglio inoltre approva la prosecuzione dell'operazione Althea in modo da contribuire alla stabilità del paese e conferma la disponibilità dell'Unione Europea a proseguire in questa fase l'assunzione di un ruolo militare esecutivo a sostegno della Bosnia. Fervono i contatti bilaterali in vista dell'incontro a tre tra Unione Europea, Russia e Ucraina, previsto domani a Bruxelles per trovare un'intesa sul gas. Il commissario dell'Unione Europea all'energia, Oettinger, ha riferito la sua portavoce oggi a Kiev per incontrare il ministro ucraino Prodan. L'accordo finale, ha ricordato, deve risolvere due aspetti importanti: da una parte il debito pregresso di Kiev con Gazprom, con il prezzo del gas già consegnato e in quante e quali tranche saldare il debito; dall'altra i volumi e il prezzo delle nuove forniture, quantomeno per il periodo invernale, da Mosca a Kiev. È tutto da Europa 24, vi saluta qui Daniele Biacchisi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.